fare le cose con stile, si dice anche, no, in maniera immediata, fai a modo, fai a maniera, fai in maniera, e fare le cose con stile. E infatti oggi parleremo in mostra di manierismo e del termine maniera, che è già presente in una letteratura artistica riportata dal Vasari, cioè di stile. Con questa accezione viene ripreso da Vasari nella monumentale opera Le Vite e inizia ad assumere un significato sempre più specifico e anche fondamentale nell'interpretazione dei fenomeni artistici. Nella terza parte delle Vite, il capolavoro dello storico aretino comincia a parlare di maniera moderna o grande maniera, grande stile dei suoi tempi, ovviamente, indicando in artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello, i fautori di un apice, del massimo della progressione artistica, che già però era cominciata, no? Mi ricorda molto il Mood Groove con la rivoluzione nell'aspetto cestistico, con una sorta di preparazione a questa rivoluzione. E infatti allo stesso modo una parabola ascendente, no? Che alla fine del 200 con artisti come Cimabue e Giotto hanno dato il via a questa progressiva realtà di stile e di maniera, che arriverà poi a un culmine con dei Larry Bird, dei Magic Johnson, dei autori, in questo caso artisti allo stesso modo, li abbiamo citati, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, insomma artisti del Cinquecento, al quale attribuisce infatti il merito di essere arrivati a una perfezione formale, di un ideale, di un bello, in grado di superare gli antichi, antichi tra virgolette ovviamente, cioè i mitici artefici di quella che era considerata un'arte classica e della natura stessa. Vasari raccomandò con attenzione quindi ai nuovi artisti di riferirsi a questi modelli per acquisire uno stile, una bella maniera. E questo insomma è un pochettino un'introduzione che vogliamo fare a quest'opera ritenuta manierista. Ed è un'artista bolognese, Lavinia Fontana, figlia d'arte di Prospero Fontana, che è la protagonista di oggi in mostra. Tra poco ho portato una colonna sonora in maniera di una manierista del contrabbasso, che è Esperanza Spalding. A tra poco entreremo in Pinacoteca, la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Pittrice, figlia d'arte, è bolognese, nasce nell'agosto del 1552 Lavinia Fontana, pittrice italiana del tardo manierismo, sì, e viene ricordata per essere stata la prima donna tutti i tempi a dipingere una pala d'altare, per aver dipinto il primo nudo femminile ad opera di una donna, Minerva, nell'atto di vestirsi, e fu commissionata quest'opera capolavoro dal cardinale Scipione campione borghese. Tra l'altro lei termina la sua carriera a Roma. Ci sono attinenze con Bologna e diverse correnti artistiche, certo con Roma, ovviamente la realtà manieristica del Parmigianino con le opere farnesi di Parma, con il colore che lei andrà ad approfondire nei suoi studi dei grandi padri autori del Rinascimento veneziano nell'aspetto tonale. Aspetto tonale di un'opera che veramente lascia senza fiato. I riferimenti a Raffaello, di cui parleremo, l'intensità tonale, l'immagine, i rimandi a una classicità. Insomma, il lavoro che è protagonista appena restaurato in Pinacoteca, in cui sarà poi inserito nel percorso artistico di questa prestigiosa sede, è stata presentata l'opera del restauro, l'opera di Lavinia Fontana, l'apparizione della Madonna col Bambino alle Sante. Poi vi dirò perché è un All-Star Game di Sante questo, e ne abbiamo parlato a proposito di questi percorsi insieme, per cominciare la nostra conversazione, con Mirella Cavalli dalla Pinacoteca di Bologna, storica dell'arte. Sentiamo insomma questo processo importante tra restauro e approfondimento artistico dedicato a Lavinia Fontana. Allora, è un dipinto che è stato appena restaurato. Oggi appunto siamo qui per festeggiare questo restauro finanziato da Coppa Alleanza 3.0 in seno al progetto Opera Tua, quindi noi abbiamo vinto questa gara del 2023, che era proprio dedicata alle artiste donne, e Lavinia Fontana è una delle principali artiste donne, attiva nel secondo 500 e all'inizio diciamo del 1600, muore nel 1614 a Roma, quindi un'artista molto importante. È la prima artista ad eseguire, a ricevere la commissione di una para d'altare, la prima artista donna ad eseguire un nudo femminile, insomma. E quest'opera che presentiamo oggi è un'opera della sua attività tarda, è datata 1601, è proprio firmata e datata dall'artista stessa. È un momento, diciamo, in cui Lavinia Fontana approfondisce lo studio della pittura veneta, in particolare di Tintoretto, dei Bassano, riflette nuovamente sulla grazia e l'eleganza della pittura parmense e guarda Raffaello, in particolare l'Estasi di Santa Cecilia di Raffaello, che è un'opera della Pinacoteca di Bologna, dalla quale opera Lavinia Fontana recupera l'impostazione delle figure. La particolarità è che sono tutte sante, sono tutte donne raffigurate in questo dipinto e tutte riconoscibili dai loro attributi iconografici, quindi un'opera anche abbastanza rara da un punto di vista iconografico. Maniera nel comporre di Esperanza Spalding è una contrabbassista, anche cantante oltre che autrice. In questo disco, il suo secondo lavoro, Chamber Music Society, che vede collaborazioni di cui vi parlerò a breve, ha una costruzione di modern mainstream, che è la maniera appunto e la capacità di saper comunicare nella bellezza e nello stile, fatto a modo e maniera. Quindi alle 8:14 minuti, dopo aver dato un'immagine anche a quella che è l'emozione trasmessa in questa apparizione, quello che troviamo oltremodo, con il parallelismo a diversi maestri che comprendono un fascio, uno spettro di colori, di luci, di iconografie, di una ripresa a un classicismo, ma nello stesso tempo un pennello al femminile che ha saputo portare l'attenzione a delle micro sensazioni da cogliere. Mi rifaccio al grande capolavoro di Raffaello per quanto riguarda questa ispirazione di maniera all'estasi di Santa Cecilia, che troneggia in Pinacoteca. È un capolavoro assoluto, vi consiglio assolutamente, anzi, come dico di solito, obbligo la visita, oltre che per la prestigiosa sede espositiva. Saluto la direttrice Maria Luisa Pacelli, che non troviamo in questo dialogo per quanto riguarda il restauro e la presentazione del capolavoro di Lavinia Fontana, ma che indubbiamente ha portato inserimento all'interno del percorso della Pinacoteca stessa. Aggiungo un'altra cosa, che il capolavoro raffaellesco di Raffaello, appunto dell'estasi di Santa Cecilia, con questi strumenti ai suoi piedi, sapete bene, no? L'attinenza che ha la santa con la musica e le figure che vi sono intorno, con un aspetto atmosferico e allo stesso tempo di conversazione intensa, da sguardi, da momenti e da emozioni, hanno veramente qualcosa che hanno portato dalla non solo disposizione di queste figure, però una idea poi traslata nei momenti che ha voluto nell'All Star Game tutto al femminile di Sante, che poi andrò a enunciare dopo la seconda parte di conversazione con Mirella Cavalli, curata da Lorenzo Pauri, che ringrazio tantissimo, un parallelismo importante anche per quanto riguarda questo aspetto iconografico. Intanto Esperanza Spalding ci tiene compagnia, questo è il suo primo disco, Juno, stiamo già ascoltando il brano The Peacocks, I Pavoni. Ricordo che con lei troviamo anche Arwan Ortiz al pianoforte, un altro musicista molto importante. A tra poco. Grazie Sergio, il tuo amore è ricambiato, grazie, aggiungo anche un buongiorno per questo giovedì 14 marzo in mostra speciale Manierismo. Aggiungo anche un altro grande artista vicino, certo vicino insomma non per attinenza geografica anche, ma per tanti altri motivi, ne ho fatto anche uno speciale, oltre che il parmigianino, il Correggio. di opera manierista, il capolavoro Noli mi tangere, no? Riferito a un episodio molto intenso che viene riportato con questa formazione assolutamente forte, con opere grandi, opere che hanno non solo il messaggio ma anche l'intensità tonale, di forma, estetica, bellezza, coinvolgimento. Grazie a Lorenzo Pauri della redazione culturale di Radio Città Fujiko in Pinacoteca per questa presentazione del restauro dell'opera di Lavinia Fontana, Apparizione della Madonna col Bambino alle Sante. Aggiungiamo a questo punto che siamo arrivati un po' a metà del format in mostra, i protagonisti per quanto riguarda il lavoro importantissimo di restauro. Chi si è occupato del restauro del quadro? Allora, del restauro del quadro si è occupato SOS Arte di Carlotta Scardovi, un laboratorio di Bologna importante, diciamo attivo da diversi anni, con all'attivo un numero di restauri significativo. Allora, il quadro non poteva essere esposto nelle condizioni in cui si trovava, e quindi è stato proprio bene riconsegnato anche alla pubblica fruizione con questo restauro. Quindi aveva una vernice molto spessa, molto ingiallita, aveva dei ritocchi alterati, erano stati eseguiti in passato degli interventi non proprio congrui, insomma, e quindi abbiamo cercato di riprenderlo, di recuperarlo e di ridargli una dignità espositiva. Come verrà inserita la seicentesca opera all'interno della Pinacoteca Nazionale di Bologna e che percorso le sarà costruito attorno per esaltarla al meglio? Allora, con l'occasione del restauro l'abbiamo proprio esposta, prima non era esposta, e con questa occasione abbiamo creato un piccolo angolo nel nostro salone dei pittori manieristi dedicato proprio alla Lavinia Fontana. Quindi il dipinto è assieme, è vicino a due opere fondamentali di Lavinia Fontana della Pinacoteca di Bologna, che sono il ritratto della famiglia Gozzadini e sono il Bambino nella culla. Quindi queste tre opere, quella restaurata e queste due, stanno assieme, vicine, in un angolo dedicato alla Lavinia Fontana nel Salone dei Manieristi della Pinacoteca. And two confetti, brown and orange, I know soon you'll come to the lip of the wind. And they will make it branches with warmth and the cold. One kiss of your warmth heals the soul. Shine the sun, make this cold heart whole. Summer Sun, questo sole che riporta una richiesta di attenzione per quello che è un'attesa intanto di primavera, poi la bella stagione, insomma, eh. manierismo musicale con Esperanza Spalding al contrabbasso e alla composizione con Gil Goldstein per quanto riguarda Chamber Music Society, secondo me il suo disco più riuscito, anche se il lavoro che continua in diversi campi di esplorazione con microsensazione, anche con progressive, con rock, con la capacità di dialogo e anche la leggibilità dei brani porta a un raffinato pop. Ho voluto abbinare questa artista a Lavinia Fontana perché tante sono le attinenze anche con quella che è una sorta di mainstream, se vogliamo, perdonate il termine, ma la vicinanza che c'è anche nelle opere o nell'opera, nello specifico di questa presentazione per il restauro, ringraziando e citiamo Coppa Alleanza 3.0 per l'organizzazione e la proposta di portare questo capolavoro nel percorso museale della Pinacoteca, l'apparizione della Madonna col bambino alle sante. Iniziamo allora questo All Star Game, questa convocazione. Caterina d'Alessandria, Margherita, di cui abbiamo parlato anche poco fa, Agnese, Orsola e Barbara. Allora, la figura di queste sante, adesso non voglio assolutamente apparire blasfemo, invito alla visione dell'immagine dal vivo, magari sarebbe più opportuno, però queste sante hanno un insieme che riporta a un aspetto di dee. Sembrano veramente in un approccio, oltre che di estasi, anche di solennità. Nel classicismo, così, la rappresentazione della divinità femminile ricorda tantissimo queste figure riprese dalla Lavinia Fontana e poi la discesa al di sopra della Vergine col bambino. Ma in realtà le protagoniste in questo caso restano loro, almeno nella sensazione che mi ha comunicato il lavoro. Portiamo a termine questo brano, dopodiché si rientra in diretta dopo la pubblicità per continuare. Avremo un'altra voce anche per quanto riguarda l'organizzazione di restauro per questo capolavoro, quindi la rubrica in mostra, scusate, vedete poi quando ci si occupa nella stessa puntata di diverse rubriche un pochettino c'è il rischio della confusione, già sono confusionario di mio, per cui pubblicità breve, poi di nuovo Breakfast Club in mostra Pinacoteca Nazionale di Bologna. A tra poco. Mm-hmm. Tornando in diretta 8:34 minuti in mostra, loro sono i Fila Brasilia, molto affascinanti per questo progressivo funky che riportano dal disco Power Clown. Una band molto misteriosa, incideva per una label, magari incide ancora, dopo ha fondato una sua label, mi pare, una label inglese, loro sono londinesi e la label con la quale hanno iniziato, dal nome molto particolare, la Pork Recordings, dal quale ho fatto anche uno speciale sulle label più strane, ecco, questa è una di quelle. Questo capolavoro oggi protagonista con il restauro del capolavoro di Lavinia Fontana, grazie alla intervista, alla conversazione che ha tenuto Lorenzo Pauri dalla redazione culturale di Radio Città Fugico. Abbiamo parlato della corrente artistica, abbiamo parlato dell'opera stessa, dell'apparizione della Madonna col bambino alle sante, abbiamo dato alcuni cenni storici, un inserimento nel percorso della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Ora vedremo anche un inserimento nel contesto storico dell'epoca e anche nei percorsi che ci portano ai giorni nostri. Quale contributo storico-artistico può dare il quadro di Lavinia Fontana a Bologna in generale, ma anche a tutta l'Italia, al concetto del restaurare opere a volte meno note, ma non per questo con meno pregio, con meno qualità? Sì, è una domanda molto molto interessante che ci riporta proprio anche alla modalità di finanziamento di Opera Tua, che coinvolge proprio le persone, coinvolge i soci Coop. Noi abbiamo vinto una piccola gara, cioè Opera Tua mette a confronto due dipinti, i soci votano e i dipinti, e il dipinto che riceve più voti poi beneficia del restauro. Insomma, è un modo anche molto molto significativo, perché è anche un gioco, quindi uno strumento particolarmente accattivante per avvicinare le persone, per sensibilizzarle ai beni culturali, e anche appunto per far capire che il patrimonio è condiviso, cioè di tutti, e che tutti possono poi partecipare al recupero, ad esempio alla salvaguardia. E il patrimonio non è fatto solo appunto di capolavori, questo è un dipinto diciamo molto importante perché è della pittrice Lavinia Fontana, cioè artista estremamente importante e significativa, però non è forse il più importante della sua produzione, però comunque è significativo della sua attività tarda, anche per questi richiami che ha con Parmigianino, come dicevo, con l'Illuminismo Veneto, con Raffaello. Però i dipinti più noti di Lavinia Fontana sono altri, però è chiaramente tutto assolutamente importante, perché è il modo diciamo per valorizzare interamente il catalogo di un artista. Questa modalità di coinvolgimento diretto delle persone io lo trovo veramente molto efficace, insomma, perché è chiaro che bisogna continuare a parlare di beni culturali e bisogna continuare diciamo a parlarne in modo che le persone possano recepire e possano essere invogliate. Insomma, mediamente le persone vanno a vedere i musei, vanno a vedere le mostre soprattutto, e magari a volte non sanno cosa c'è dietro un museo, cosa c'è dietro una mostra, e l'attività di restauro è senz'altro fondamentale, insomma, senza quella noi non potremmo assolutamente permetterci di esplorare le opere. Per me sono proprio questi lavori, invece, secondo me, che danno così quella curiosità per approfondire, per saperne di più. È anche difficile comunicare questa emozione, questa microsensazione che c'è ascoltando un disco che magari non è il disco più riconosciuto di un grande musicista. Guardare, ammirare nella carriera alcuni aspetti di un grande campione che magari non ha vissuto il suo anno più vincente. Però indubbiamente queste, che non sono schegge, sono parti fondamentali, non sono neanche, io non riesco a definirle opere minori, anzi li ritengo alla pari, anche se con un ruolo diverso nella conoscenza. E non è una sorta di completismo, non è una mania di voler tutto, è semplicemente capire per poi approfondire, emozionarsi per poi comprendere in maniera più estesa. Proprio messo a contratto che lei si accettava di sposare questo figlio, diciamo, di questo ricco mercante imolese della famiglia Zappi, purché il marito le consentisse di continuare a lavorare. Quindi anche un bel esempio, come dire, di emancipazione femminile. E caso raro è il marito che poi a un certo punto abbandona la sua attività per seguire lei, per farle da manager, diremmo oggi, quindi per seguire i suoi contatti, per procurarle anche committenti, insomma, sostanzialmente opera proprio nelle retrovie affinché lei possa, diciamo, esprimere e portare avanti la sua arte. Ecco, su questa conclusione volevo sottolineare, no? Lei si sposa e mette però ben chiare alcune cose. Io voglio dipingere, io sono l'artista, voglio portare avanti le mie ricerche, i miei studi, le mie ispirazioni e voglio dipingere. Sì, e non solo sarà accettato questo, ma il marito, in maniera molto illuminata, aspetta un attimo che adesso, sì, insomma, il tuo talento lo gestiamo insieme in un certo modo. E insomma, come ha detto nella intervista parte conclusiva Mirella Cavalli, questo è un bel esempio, siamo nel tardo 1500 di collaborazione insieme e di emancipazione. In conclusione, dopo l'approfondimento con Mirella Cavalli, grazie tra l'altro della disponibilità per questo dialogo che ha dato possibilità di conoscere il lavoro di Lavinia Fontana e per approfondire il lavoro di restauro, a breve parleremo con Carlotta Scardovi, ma intanto ringrazio Mirella Cavalli della Pinacoteca di Bologna, storica dell'arte. Concludiamo appunto con questa citazione per quanto riguarda l'approfondimento nel lavoro di restauro, che come ben sapete ha una notevolissima importanza e anche una grande difficoltà e l'impegno. Mi presento, io mi chiamo Carlotta Scardovi e il laboratorio che gestisco si chiama SOS Art SRL ed è qui di Bologna e opera qui nella zona dell'Emilia Romagna. Quali tecniche e quale approccio operativo sono stati utilizzati per cercare di riportare il quadro agli antichi splendori? Allora, innanzitutto, attraverso il finanziamento di Coop Adriatica è stato possibile, cosa che non sempre è possibile appunto, effettuare delle indagini diagnostiche prima dell'intervento di restauro. Questo cosa vuol dire? Significa che abbiamo potuto procedere con una consapevolezza maggiore sia dei materiali utilizzati dalla vigna e sia dei materiali che abbiamo trovato sulla superficie, che erano quelli che offuscavano completamente l'immagine, che era quasi illeggibile prima del restauro. Il restauro è consistito praticamente nella rimozione di queste sostanze alterate, residui di precedenti interventi di restauro. È stata un'operazione molto delicata, seguita dalla dottoressa Cavalli con molta cura e attenzione, e questo ha consentito di riportare alla luce dei dettagli bellissimi tipici della pittura di Lavinia Fontana, che sono molto delicati però anche molto sapienti, lumeggiature, velature che descrivono queste figure femminili con una estrema delicatezza e un'estrema eleganza anche. L'aspetto di cogliere questi particolari e emozionarsi davanti a questi e sentirli, percepirli, è indubbiamente un passo per conoscere, per vedere, per approfondire e per appassionarsi sempre di più alla storia dell'arte. Almeno parlo per esperienza personale, che cerco di condividere con voi, ringraziandovi per l'attenzione. La nostra rubrica del giovedì in mostra termina qui. E lunedì ci sarà la presentazione del Lungo 800 a Bologna, di cui Radio Città Fujiko, insomma, darà col Breakfast Club un approfondimento molto attento. E poi ricordo Magnani Rocca con la mostra di inizio 2024, anche in questo caso ci sarà un'attenzione per la prestigiosa sede espositiva che già conoscete a Mammiano di Traversetolo. Insomma, poi arrivano 8 pale d'altare di Piero della Francesca, Piero della Francesca al Museo Poldi Pezzoli di Milano, e vorrei riuscire a prendere un po' tutti questi appuntamenti che sono veramente da non perdere. E quindi una rubrica a regola d'arte c'è assolutamente, come ogni giovedì al Breakfast Club. E domani invece si alza la sipario, andremo in scena, doppio appuntamento in scena, chiudiamo la settimana in questo modo per la prima colazione in diretta. E ricordo anche il Jazz Live, che dalle 11.30 alle 12.30 darà un panorama jazzistico tra Paradiso Jazz, Jazz Club Il Torrione di Ferrara, e una presentazione a sorpresa anche di un'uscita discografica appena arrivato, e lo porteremo in frequenza qua sui 103.1. A domani quindi con la prima colazione in diretta.